Vacherro, pare burro Vacherro, mazza che figata sto programma, raga! Un rocker, il nostro rocker di riferimento, Roberto detto Freak, di cognome Antoni. Un saluto a tutti i nati il venerdì 30 novembre, anche se non era venerdì, il 30 novembre va bene, uguale. E quello che stiamo per segnalare, Ariel, è uno scrittore molto rock. Dice? A cui darei una tessera honoris causa. Ben volentieri, nasceva nel 1835 Mark Twain. Lei ricorda qualche pubblicazione? Ma naturalmente, le avventure di Tom Sawyer e quelle di Huckleberry Finn. Ah, attenzione, sì. Le avventure di Huckleberry Finn sono molto più divertenti delle più famose, più citate avventure di Tom Sawyer. Quindi lei le consiglia? È un libro, un romanzo straordinario, un romanzo di formazione, un romanzo giovanile con tante altre implicazioni. Devo dire che di Mark Twain ricordo una frase bellissima. Sì. Posso citarla? Deve. Scelgo il paradiso per il clima, ma l'inferno per la compagnia. Un genio! Sono soldi spesi bene quelli per lei, maestro. Io lo sapevo. Proseguiamo. 1874. Guardi qui, con questo grosso sigaro in bocca. Chi le sembro? Groucho Marx. No. Ci sono andato vicino, però. Nemmeno tantissimo. Dica la verità. Volevo assomigliare a Winston Churchill. Ah, il grande Winston Churchill. Male, sì. No. Adesso che ci penso... Proprio il 30 di novembre, sembrava un po', certo. Sì, sì, avevo protagonista. L'occhio statista. Sì, è vero. Protagonista della Seconda Guerra Mondiale, uno dei grandi uomini della storia del XX secolo. Ricordiamo invece un celebre conduttore televisivo italiano e anche conduttore radiofonico, il giornalista Enzo Tortora, che nasceva nel 1928. Chiudiamo invece con un regista britannico, 1937, nasceva Ridley Scott. Ridley o Riley? Dobbiamo documentarci. No, Ridley sono quasi sicuro, come sono certo che fu lui a realizzare Alien. Che film indimenticabile. Un classico. Sempre sulla fantascienza, Blade Runner. Ah. Ho visto cose che voi umani potete soltanto immaginare. Ah. E un altro, famosissimo, quello con le due ragazze che si emancipano, prendono la macchina, scappano, certo, per tutta l'America. Certo, lo conosco perfettamente. Se lo ricorda. Le studentesse... Sì. Scappano in cabriolet e incontrano Rocco magnifico Siffredi. No, ma la smette, era Thelma e Louise. Ma perché dice stupidate? Ah, poi? Altre due porno dive, ma sempre in quel campo siamo, Molto bene. Chiudiamo baracca e burattini, la prego. Ma Fabio Fazio, in chiusura, in coda, non lo ricordiamo? Lei vuole? Naturalmente, un collega va citato, sempre citato in tribunale. 1964, ti citeremo, Fabio. Complimenti a Fabio Fazio. Fazio Fabio. Fire Lake, Bob Seger and the Silver Bullet Band, alle 8:10 minuti primi. Puntata folle quella di oggi, puntata 141, c'è puzza di festa qua, visto che settimana prossima andiamo con la crema, e quindi volevo concludere con tutti i nostri redazionisti che non abbiamo fatto tempo a sentire in settimana, ma avevamo un conto in sospeso con Andrea, colui che studia la concorrenza delle altre radio. Bentornato, patentato 147. Eccomi qui, non so come sia, ma come deve pur farlo. Faccio sapere agli amici toscani, come ho accennato ieri, che a gennaio abbiamo la prima festa per le patenti da vero rocker a Firenze, quindi arrivano anche là. Perché bene. Io lo so, tutte le volte che ti annuncio come patentato... Lo so. Lì a Firenze, Pisa, Livorno, fanno tutti così: medaglia. Esatto. E la vogliono anche loro. Abbiamo un padre di famiglia che descrive le donne nude, invece tu, che non hai figli, studi la concorrenza. Dovremmo fare un cambio. Non avendo figli. Non vuoi fare un cambio con Yuri? Fai tu le donne nude e a lui gli facciamo fare la concorrenza. Ma può anche andare bene questo cambio. Però secondo me Yuri è imbattibile in quello. Non potrei assolutamente imitarlo, cioè, è impossibile. È dura, è sì, sì, anche per l'accento. Andrea è da lunedì che non ascolta Pane, Burro e Rock and Roll, ma secondo me ogni tanto poi lo ascolti tu, maledetta mascherina, ti conosco. Ma diciamo che ci sono i podcast, quindi... bravo. E sta studiando la concorrenza che si chiama Virgin Radio. No, basta voce, Virgin Radio, velocemente, senza tanto... In che senso? Senza tanto urlarla questa Virgin Radio. Ah, ok. Anche perché alla fine, come ti dicevo, come mi aggancio a quello che ho detto alla fine dell'altro intervento, sostanzialmente Virgin Radio, fin tanto che non parlano, non so fino a quando dura, è un puro contenitore per adesso di musica rock. Sì. Una cosa carina che potrebbe essere un'idea è che sul sito ci sono due soluzioni in streaming, uno per la musica rock classica e uno per la musica rock contemporanea. Non diglielo a Garavelli che gli viene una carogna. Posso raccontarla questa? Perché Garavelli è da almeno 5 anni che dice: oh, facciamo un sito dove c'è l'alternative e c'è la radio classica. Poi da quando abbiamo fatto il cambiamento a marzo, Garavelli subito ha detto: no, però allora su internet dobbiamo mettere per forza la radio alternative. Qualche settimana fa mi si è presentato e ha detto: sono andato sul sito di Virgin. Ho detto: vabbè, cosa c'è Garavelli? C'è una radio alternative come dicevo io. Ecco. Oh, gli è venuta una carogna che non gli scendeva più. Tra l'altro quello è anche il motivo per cui ho beccato un mio collega ascoltatore di Virgin Radio che non riesco a convertire a come non riesci? Però. Non riesco perché lui dice che in ufficio si ascolta sul sito di streaming e sceglie uno o l'altro. No, beh, dobbiamo inventarci qualcosa, eh? Non ha qualche vizietto questo qui? Tu lo conosci bene? Ma oddio, sì, abbastanza, qualche vizietto di che tipo? Perché... guarda, dipende, avesse anche dei vizietti di quel tipo lì potremmo informarci, sì. Spadino è uno timido al microfono, ma in realtà in quell'ambiente ha una certa dignità. Oddio, si può provare, adesso posso, mi informo. Perché la rubrica sulle conversioni a Rock FM è vincente, dovremmo farla quella. Stai morendo. Stai morendo, convincere. Andrea, stai morendo, torna coperto col segnale. Sono qua, sono in Piazza della Repubblica. Sei qua sotto la radio? Vieni su a trovarci. Vieni su che ne chiacchieriamo un po' qua del tuo collega. Intanto dai, io proseguo con la trasmissione, se ti va. Sì, va bene, dai. Ma se no possiamo stare anche al telefono. Oggi, guarda, è una puntata free, quindi avevi altro da raccontarci? Ma su Virgin Radio. Ma anche no, basta Virgin Radio. Ci ha rotto le scatole, sì. Cosa facciamo allora, da dicembre? No, pausa, basta concorrenza pausa. Dicembre. Dovresti inventarti qualcosa per il Natale. Sì, sì. Ah, tutto. Domanda al volo. La faccio sentire la canzone di Natale in anteprima oggi o no? Ma io direi di sì, un pezzettino, però non tutta. Un pezzettino solo? Sì. Maledetto. Va bene, ci penso. Ciao Andrea! Ciao, a tutti. Presto. Oh, guardi che bello, caro Freak. Possiamo, lei sa che abbiamo un forte ascolto in terra toscana. Sì. In questo 30 di novembre la redazione ci segnala una bellissima notizia riguardante la pena di morte e soprattutto un primato tutto toscano. La notizia riguarda un argomento terribile, ma è buona. Perché nel lontano 1789, infatti, fu il Granducato di Toscana il primo stato al mondo ad abolire la pena di morte. Evviva la Toscana! L'Italia, tra l'altro, l'Italia continua in questa missione dell'eliminazione della pena di morte. Infatti, è stato su impulso italiano e soprattutto grazie all'associazione radicale Nessuno Tocchi Caino che dal 1994 si sta lavorando a livello internazionale per abolire la pena di morte. Ed è notizia di qualche giorno fa, ovvero del 15 di novembre, quando la terza commissione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione per la moratoria universale sulla pena di morte, ma il tutto, volevamo ricordare quest'oggi, è iniziato ipoteticamente in Toscana. Certo, e questa moratoria è stata fortemente voluta dall'Italia. Infatti uno Stato non può e non deve essere più crudele dei suoi figli pessimi in qualche modo, no? Può dirlo forte, maestro. Uno Stato non si può comportare peggio dei cittadini che hanno sbagliato, no? Non può essere più deleterio dei suoi figli più nocivi in qualche modo. Deve dare un buon esempio. Parole sante, maestro, parole sante. Abbasso la pena di morte. E viva la moratoria internazionale contro la pena di morte. Dove pensi di andare, amico? Prendi il facsimile, guido io. Cosa? Il facsimile. Il cosa? La controfigura della borsa. Ma che... Hanno già chiamato. Che cosa c'è qui dentro? Le mie mutande sporche, il bucato, la biancheria. Walter, ci deve essere un motivo per cui hai portato le tue mutande sporche. Ah, certo che c'è. Il peso. Il facsimile deve sembrare pieno. Walter, ma che cazzo ti frulla in testa? Hai indovinato. Mi è frullata in testa un'idea. Perché noi dovremmo accontentarci di 20.000 dollari? Noi? Che cosa c'entra noi? Hai detto che volevi solo accompagnarmi. La mia opinione è che non dovremmo accontentarci di 20.000 dollari quando possiamo tenerci tutto il malloppo. Mi sbaglio? Sì che ti sbagli. Questo non è mica un gioco, amico. Oh, ma sì che è un gioco. L'hai detto tu stesso. Si è rapita da sola. Avremmo un test attitudinale da servire caldo e fragrante. Complicato, difficile, non demordete, non demoralizzatevi, esatto. Restate in ascolto. Scoprite al volo se siete o non siete dei veri rocker. Oggi andiamo a parlare di un rocker testa calda. Sa, sti rocker qua a volte gli piace menar le mani. È capitato sicuramente qualche giorno fa a Tommy Lee, celebre batterista dei Motley Crue, all'interno... Scusi, i Motley Crue sono il gruppo che piace tantissimo al nostro ragazzino di riferimento. Proprio loro. Motley Crue, Motley Crue. Esatto. Motley Crue. Gli sono girati i 5 minuti nel bel mezzo della scorsa cerimonia di consegna degli MTV Music Awards a Las Vegas. Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Ce lo dica, tra l'altro, cosa ha fatto? Mi sembra un'ottima occasione per farti girare 5 minuti di fronte alle telecamere di MTV. Ma va bene, certo. Sembra infatti che abbia iniziato una scazzottata con un altro rocker. Sapreste identificare chi dei tre è colui che se le è prese da Tommy Lee? A. Steven Tyler degli Aerosmith, che pare gli avesse fatto una battuta sul fatto che suonasse la batteria come una femminuccia, una mammoletta. Era lui oppure... Ipotesi B, Kid Rock, anche lui amante della bellissime procace Pamela Anderson. Forse si tratta di gelosia? Oppure ipotesi C, Travis Barker, batterista dei Blink 182, che sembra gli abbia detto che più che dei metallari, i Motley Crue sembrano delle checche. Che isteriche. Con chi si è azzuffato Tommy Lee dei Motley Crue? Ipotesi A, B o C. Come al solito la risposta ve la diamo tra poco. La soluzione a poco dopo. Si parlava di scazzottate all'interno del test attitudinale di stamane. Tommy Lee, il batterista dei Motley Crue alla scorsa edizione degli MTV Music Awards di Los Angeles, ha menato le mani con un altro rocker. Forse Steven Tyler, come ipotizzato nella soluzione A? Ahimè, chi ha scelto questa soluzione ha sbagliato, infatti. E allora forse si è azzuffato con Kid Rock, col quale, ricordiamo, ha un amante in comune? La straordinaria Pamela Anderson, sì. Ebbene, questa è già più vicina alla realtà, cioè è esatta. Esatta, gioite se avete scelto Kid Rock. Sì, si sono azzuffati. In realtà è stato Kid Rock, sembra, a tirargli il primo pugno. E poi la security ha portato via Tommy Lee, che ha anche fatto le scuse ufficiali ad Alicia Keys, che in quel momento stava cantando, poverina, perché stavano consegnando dei premi. Sì, lei ha mai... un po' distratto. Lei ha mai distratto una cerimonia di consegna dei premi facendo una scazzottata? No, ma mi sarebbe piaciuto, è molto rock. Ce lo appuntiamo, prima o poi lo faremo. Sì, esatto, e mandiamo due tessere a Tommy Lee e anche all'altro, esatto, a Kid Rock, sì, perché se le sono meritate. Bene, complimenti, ragazzi, datevele sempre così sode davanti alle televisioni di mezzo mondo. Se avete azzeccato, bene, se non avete azzeccato, restate con noi. Rock, vi ci facciamo diventare noi. I feel like making love. Kid Rock. Abbiamo parlato di lui nel nostro test attitudinale e cantava Feel Like Making Love. E con un brano così zozzone, come non connetterci con Rosy? Buongiorno. Hai capito? C'era anche il link con la canzone un po', perché Rosy è quella che ci fa vedere i maschi nudi. È la funzione. Allora, se Yuri ha problemi con le sue figlie, Yuri è quello che ci fa vedere le donne nude, Rosy ha problemi con i colleghi toscani. Ma chiudiamo qui l'argomento. Facciamo finta di niente. Oh, lo dico anche a te, se poi vogliamo cambiare rubrica, decidi tu. Io intanto ti segnalo il Babbo Natale rampicante. Dove? Fuori Milano, a Burago di Molgora. A Burago di Molgora. Da quelle parti c'è Verderio, quelle robe lì? No. Non sei su di là verso Bergamo, Brescia? No. Ma un po' prima, un vicino po prima. Di Mercate. Sì, da quella parte, a destra però. La strada per Mezzago. Verso est, sì. Esatto, ho capito. Siamo noi. Ho capito, siamo noi. Siamo noi. Rosy! No, dicevo, perché la bazza del calendario era solo per fare il calendario di pane, burro e rock and roll. Poi una volta che l'abbiamo fatto, poi possiamo cambiare rubrica se vuoi. Va bene, cercheremo qualcosa. Se ti viene qualche buona idea, se no teniamo questa, a me piace. In realtà è vincente. Uomini e donne nude alla radio non li avevo ancora mai fatti vedere. Poi adesso nessuno. Stanno uscendo, si trovano in internet, cioè il calendario delle pescatrici. Delle pescatrici. Delle prodine. Delle prodine mi è stato segnalato con anche un disco dei Ramones in sottofondo, sì. Vabbè, occupiamoci del maschio nudo di oggi, dove andiamo? Abbiamo il calendario dei casalinghi. Ah, bello. Un calendario curato, credo, da un'agenzia pubblicitaria newyorkese. Sì. È un calendario di 12 mesi, a sì. colori. Ma casalinghi messi bene o messi male? Sono fotomodelli. Dell'agenzia, quindi si bleffa. E come fanno a far credere che dei fotomodelli sono casalinghi? Perché sono nudi, però coperti da varie situazioni, come possono essere i panni, la lavatrice, il ferro da stiro. Cioè, appeso. Torniamo ai calzini, fondamentalmente. Sì, torniamo ai calzini e hanno comunque un faccino da fotomodello, da bravo ragazzo, sì. Fisico scolpito. Sì. Quale avresti scelto per questo venerdì? Per venerdì, non so, potremmo fare il maschio in cucina, che è la foto più allusiva, o se no, tema natalizio, il Babbo Natale. Allusiva tutta la vita, vai. Sì. Allora, la foto raffigura un modello abbastanza muscoloso, biondiccio, occhi azzurri. Vi ricordo che Rosy è una che non si accontenta, Sto imparando a conoscerla, cioè. No, mi fregano gli studi di anatomia del liceo artistico. Ah, ok, ok. Tra l'altro ti avviso che su dovesse andare in porto sta roba del calendario, sono delle copertine rock. Non so se tu hai in mente Two Virgin di Lennon e Yoko Ono. Sì. John Lennon e Yoko Ono nudi? Sì. Ecco, le abbiamo rifatta io e Freak. Quindi poi te la faremo avere. Tu fai lui o lei? Io faccio John. Ecco perché servivano gli occhialini. Riprendi, scusa. E ti avviso da subito, non ho neanche tirato in dentro la pancia. Che bello. Proprio l'ho lasciata fuori così. Va bene. Ma la pancia fa bene, eh? Va bene. Continuiamo con i tuoi modelli. Quindi vai. Il ragazzo è in cucina, in una cucina che potrebbe essere arredata dalla famosa linea svedese che abbiamo qua attorno a Milano. Sì. Il tavolo è un pochino basso, sì. Quindi lascia scoperto un pochino, diciamo, di basso ventre, una vista di pelo, sì. Dietro ci sono degli scaffali pieni di pentole, bicchieri, eh? E lui... Ti sento leggermente critica anche sulla cucina. Eh no, perché adesso arriva il pezzo forte. Davanti... Se si può, eh? Lui sta pelando delle patate e davanti ha un cesto di verdura con tre zucchine... E una banana... No, solo vegetali. Tre zucchine messe proprio lì. E due pomodori rossi. Messi a lato. A lato. Un buon gusto. L'ho capita. L'ho capita, sì. Questa era la foto più allusiva. Apprezzavi o non apprezzavi tu? Ci ho messo un po' a capirla. Ah, ok. Però. Eri più presa dagli armadietti dell'IKEA. Sì, stavo guardando il tavolo basso, perché essendo piuttosto basso mi serve un piano d'appoggio basso. Okay. Mi domandavo. Rosy, grazie del servizio, ci sentiamo poi a dicembre. Va benissimo. Chiedo anche a te, la passo la canzone di Natale in anteprima o no? Un pezzettino dal fondo. E dal fondo è difficile. Spadino, ce la vediamo. Ok, ci lavoriamo. Grazie, ciao. Per rendere il nostro compito difficile. Buona giornata, Rosy, un bacio. Ciao. Look out, look out. Look out, look out. effetto stereo. Per voi che state ascoltando in cuffie capite cosa sto dicendo, eh? C'è questo finale splittato destra-sinistra che manda scemi. Questo è Pane, Burro e Rock and Roll, la nostra colazione. Vi saluta l'Ariele, Spadino, Freak e la nostra redazione. Puntata 141. Allora dai, diamo un'anteprima della canzone natalizia, anche perché vedevo Freak girare con un casù in mano. Quindi o mandavamo la canzone di Natale o Communication Breakdown delle Zeppelin fatta col casù. Però visto che so che molti di voi là fuori, per le rubriche Beatles in italiano, le Zeppelin col casù, qualcuno la piglia sempre male, chiudiamo in bellezza senza le Zeppelin col casù, ok? Però veniva benissimo. Beh, poi ve la riproponiamo. Qua si ricicla sempre tutto a Pane, Burro e Rock and Roll. Abbiamo composto, scritto, diretto, registrato una canzone per Natale. Perché un mesetto fa, con la redazione di Pane, Burro e Rock and Roll, abbiamo deciso che questo 2007 sarebbe stato il primo Natale rock della storia. Ci prenderemo una breve pausa settimana prossima perché stiamo preparando altre stupidate che andranno in onda a dicembre e saranno dedicate a questa costruzione del primo Natale rock della storia. Il tutto sarà collegato musicalmente da questo brano che inizieremo a programmare dalla seconda settimana di dicembre. Devo ringraziare Olli, il mitico Olli, che ci ha aiutato nella registrazione. Mister Pinguino, mio fedele musico da ormai parecchi anni, che ha tanti problemi, Mister Pinguino, un po' come tutti voi là fuori, lui anche più di voi a volte. Tra questi problemi ha anche che impazzisce per le canzoni di Natale. Cioè, Mister Pinguino adora le canzoni natalizie. Non chiedetemi perché non lo so. Credo non lo sappia neanche lui. Quindi quando gli ho detto, Pinguino, buttiamo giù una canzone di Natale, ha sbarellato. L'abbiamo preparata in 448 e è venuta fuori questa canzone. Si chiama Buon Natale, però rock, e ve ne faccio sentire una piccola anteprima solo perché è la puntata 141 e avevamo voglia così. Buon Natale però rock, alla voce l'Ariele Frecantoni, Olli, Mister Pinguino, ci siamo, è andata, buon ascolto, un pezzettino però, Le sparmi impazzirebbero. Ehi, basta, era solo un'anteprima, non posso farvela sentire tutta. Buon Natale però rock, in onda dalla seconda settimana di dicembre, qui a Pane, Burro e Rock and Roll. Solo per voi. Il primo messaggio che arriva è questo: a me le canzoni di Natale mi fanno schifo, tranne la vostra. Abbiamo un provinante per diventare musicista rock con la bocca? Vai, redazione, chiamatelo. Wow, yeah, AC/DC. Wow. Benvenuti a Pane, Burro e Rock and Roll. Che fortunato che è lei, Freak, ad essere un vero cantante rock. Ma molto più fortunati sono i nostri radioascoltatori e le radioascoltatrici che possono partecipare al concorso diventare musicisti rock con la bocca. Anche tu là fuori puoi esserlo, basta iscriverti al servizio. Cosa aspetti? La nostra redazione ci segnala il nostro mitico radioascoltatore napoletano, ci segue tutti i giorni dalla Campania, dovrebbe esserci Antonio. Gianfranco, pronto? Pronto! Eccolo qua. Pronto Gianfranco, complimenti. Sentiamo energico. Sì, sempre. Vuoi far sapere agli altri amici come hai fatto a intervenire in diretta qui a Rock FM? Semplice, ho mandato un sms al 335-100-7777. A memoria sa il numero. Grazie. Di sms. Bravo Gianfranco. Grazie. Veramente non complimenti. Non avremmo saputo dirlo meglio. Possiamo chiederti, così per tranquillizzarti un po', anche se sembra che non ce ne sia bisogno perché ti sentiamo bello energico, quanti anni hai? 37 anni. E che lavoro fai nella vita? Faccio volontario nell'Associazione Culturale Salvo d'Acquista a Napoli. Ah, che becco. Rende grazie. Qualcosina? Si sopravvive? Abbastanza, diciamo. Però in realtà Gianfranco vuole diventare un grande musicista rock con la bocca, potrebbe è vero? Potrebbe svoltare. Sì. Potresti svoltare. Nella vita, esatto. Nella vita vera, non in quella immaginaria, suoni qualche strumento? Per il momento no. Per il momento no, perché? Che non c'ho gli strumenti adatti per suonare, quindi però mi posso accontentarmi con la bocca. Esatto, iniziamo a accontentarci della chitarra con la bocca e poi vediamo perché è la chitarra che vuoi suonare, vero? Esattamente. Ah, scusami, prima di tutto vorrei con l'occasione per mandare un bacio ai miei quattro amici di Salerno, Mimmo con la moglie Emilia e poi la mitica Raffi col marito Raffaele. Ah, certo. Fantastici. Dici che riusciranno a sentirci anche loro. Glielo dirò io, non ti preoccupare. Perfetto, va bene, bene. Gianfranco. Senti, sei decisamente preparatissimo. Che brano vorresti eseguire? Running in the dei mitici Pink Floyd. I Pink Floyd, stupendo, con la chitarra. Stupendo, stupendo. Gianfranco, noi siamo in attesa. Tu ti senti pronto? Sì, prontissimo. E allora, in diretta, sulle frequenze di Rock FM, direttamente da Napoli. Non abbiamo ancora ben capito come faccia a sentirci, ma noi ci crediamo. Nessuno aveva mai scelto i Pink Floyd. E lui lo ha fatto. E li suona con la sua chitarra che si sente dentro. Vai Gianfranco! La presa bassa, E questa però anche la batteria. Fa tutto, via di mezzo. Fa tutto. È una via di mezzo tra la chitarra e la batteria. E il basso. Ah, sì? Chitarra alta. Bravo. Molto bravo. Porta, porta. Gianfranco, fermati, perdonaci. Eccezionale. Questi UE ti sono venuti proprio alla Napole, devo dire. Partenopei sono UE, partenopei. Gianfranco, complimentoni, dobbiamo... Vabbè. Ti diciamo, le faremo sapere, ma dobbiamo appuntarci che sei il primo che non ha suonato. Non hai suonato solo la chitarra, tu. Hai fatto un po'. Anche la batteria? Tutto insieme. E anche un po' di basso. C'era sì. Anche un basso. One man band, come si complimenti, dice. Complimenti, complimenti. One man band. Gianfranco, veramente complimenti. Grazie. Come stiamo chiedendo a tutti, dovessimo organizzare una band di musicisti rock con la bocca, ci sarai? Rispondi sì. No. No, ah, che peccato. Peccato, peccato. Vabbè. Verremo noi a Napoli magari per il prossimo provino. Per il prossimo provino. Volevamo una risposta diversa, ma ci va benissimo. Anzi, contavamo nel tuo assenso. Grazie mille Gianfranco. Grazie ragazzi. Un abbraccione, viva Napoli. Si chiama psichedelia Spadino questo. Sui Pink Floyd ci sta a notte, guarda. Peccato che non ha le note giuste. Run like hell, Pink Floyd. Prima ve li ha suonati Gianfranco con la bocca. E poi Pink Floyd con gli strumenti. In questi giorni voglio incidere gli AC/DC con la bocca. Tutti, cioè una canzone intera degli AC/DC fatta con la bocca. Poi se mi viene ve lo faccio sentire. Ho anche chiesto a GL degli Extrema se me la canta lui. Mi ha detto di sì. Questa è la fine, miei cari amici. È la fine della puntata 141. Una puntata palindroma, come ci avevano fatto notare a inizio trasmissione. Una puntata ricca di emozioni, come speravamo. Iniziata che credevo di morire e finita che sono pronto, guardate, sono pronto per fare altre tre dirette di due ore. Il sole sta entrando lentamente nel nostro studio e allora non mi resta che chiedere la sigla al mio regista. Grazie caro. Per Natale parli Spadino, di qualcosa, ti vogliono sentire. Sono ragazze che impazzirebbero per te, sai. Pane, burro e rock and roll. Vi saluta l'Ariele, Freak, Spadino e la redazione. La tua colazione rock. Pane, burro e rock and roll. Siete grandi, ragazzi. Se non ci foste voi, guarda, ci sentiremmo soli. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata. No, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Yo, yo. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Vi ricordo che settimana prossima, da lunedì a giovedì, andrà in onda La Crema, il meglio del peggio di Pane, Burro e Rock and Roll, quindi potete riascoltare i Beatles in italiano, i Led Zeppelin col Kazoo, i nostri opinionisti, Rogne e Frigo, tutto quello che è andato in onda in queste 63 puntate della nuova stagione, tutte incondensate nella Crema. Noi ci si risente invece il lunedì successivo, che in questo momento non mi ricordo neanche quando è, mi aprite un calendario lì. A proposito di calendari, sembra che ce l'abbiamo fatta, avevamo mantenuto il segreto fino a oggi, perché pensavamo di non farcela. Lunedì 10 torniamo in diretta, e in quella settimana dovremmo riuscire anche a mandare in stampa questo calendario di Pane, Burro e Rock and Roll. Sono molto orgoglioso, sono 12 mensilità con 12 copertine della storia del rock, con dentro le facce mie di Freak e degli amici di Rock FM. Spero di potervelo consegnare il prima possibile. Ci sarà la canzone di Natale, Buon Natale per O-Rock, che avete commentato positivamente via SMS, mi ha fatto piacere, ve la faremo sentire per intero tra un paio di settimane. Saluto Franz che scriveva: cazzo i brividi, per O-Rock. Qualcuno dice che sembravo Jovanotti. Andrea commenta: ma chi è Bob Geldof? Questo sì che è Natale. Insomma, ne combineremo delle belle. Ovviamente faremo arrabbiare qualcuno, ma speriamo di tener compagnia a tanti altri. Vi auguro un buon venerdì, uno splendido weekend. Mi raccomando, spaccate tutto, noi ci si risente. Mi riaprite il calendario, che ho già dimenticato che lunedì è. Ci si risente lunedì 10 di dicembre. Chiedo perdono se la puntata di oggi è stata più folle delle altre, ma ieri sera con la Rock FM All Star Band abbiamo fatto tardi e qui non si era dormito. Ci si risente il 10, vi voglio bene, teste calde. Dove consegniamo? Da nessuna parte, sul ponte dobbiamo lanciare la valigetta dal finestrino. Dobbiamo lanciare il malloppo dalla macchina in corsa. Non possiamo farlo, Drugo. Il piano va a farsi fottere. Oh, allora chiamali al telefono e spiegaglielo tu. Il tuo piano è talmente semplice che lo capiranno anche loro. È questa la bellezza. Al ponte di legno, eh? Io butto la valigetta col malloppo, non facciamo cazzate, amico. Ok, stiamo arrivando al ponte, dammi il facsimile. Lascia perdere, Walter, io ti voglio bene, però dovrai ammettere che sei un cazzone prima o poi. Dai, su, non è il momento di litigare. Porca puttana, ecco il ponte. E Walter! Walter! Parte il facsimile! Ma che cazzo... Prendi il volante. A 15 miglia all'ora salto giù, torno indietro e ne faccio parlare una forza di botte. Passami il mitra. Il mitra? Poi che saldi giù completamente nudo. Walter, aspetta! Via! Conquistiamo la collina! Walter, lasciarlo!